Se qualcuno offre un'oblazione al Signore, la sua offerta sia di fior di farina. Vi versi sopra incenso. La porti ai sacerdoti figli di Aronne. Il sacerdote prenda da essa una manciata di farina e olio oltre all'incenso e ne faccia salire il fumo sull'altare come memoriale. È un dono offerto come odore gradito al Signore. Quello che resta dell'oblazione appartiene ad Aronne e ai suoi figli. È sacrosanto fra i doni del Signore. Se offrirai un'oblazione di pasta cotta al forno, il fior di farina sia preparato in focacce azime intrise d'olio e in schiacciate azime unte d'olio. Se la tua oblazione è un'offerta cotta alla piastra, il fior di farina intriso d'olio sia azimo. La taglierai in pezzi e vi spargerai sopra dell'olio. È una oblazione. Se la tua offerta è un'oblazione cotta in pentola, il fior di farina lo preparerai con olio. Porterai l'oblazione preparata in tal modo al Signore. La si presenterà al sacerdote ed egli l'avvicinerà all'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione il suo memoriale e ne farà salire il fumo sull'altare. È un dono offerto come odore gradito al Signore. Quello che resta dell'oblazione appartiene ad Aronne e ai suoi figli. È sacrosanto fra i doni del Signore. Nessuna oblazione che offrite al Signore sia preparata con fermento. Né dal lievito né dal miele farete salire il fumo come dono al Signore. Li offrirete al Signore come un'offerta di primizie, ma non saliranno sull'altare come profumo gradito. Ogni tua offerta di oblazione la salerai con il sale, e non farai mancare il sale del patto del tuo Dio nella tua oblazione. In ogni tua offerta offrirai sale. Se offrirai un'oblazione di primizie al Signore, offrirai l'oblazione delle tue primizie di spighe tostate al fuoco, di pane d'orzo mondato. Aggiungerai dell'olio e vi porrai sopra dell'incenso. È un'oblazione. Il sacerdote ne farà fumare una parte come memoriale, presa dall'orzo mondato e dall'olio, oltre tutto l'incenso, come dono al Signore.